nell'ascolto? CQ? CQ10? C'è qualcuno? CQ10? Avanti, ciao Massari. Buonasera, Oia. Ero guardando lo scaldabagno a vedere di quanto saliva, che l'ho dovuto sostituire stamattina. Mi si è bucato, mi si è. Capito, io l'ho cambiato saranno 4 mesi più o meno. Anche a me mi si era bucato, l'ho cambiato. L'ho comprato 120 euro, avevo pagato, da 80 litri, lì da Salis. Io l'ho pagato 120 e qualcosa da 60. L'ho pagato di più io. L'ho preso da 60 io, perché 80 è troppo per qua. Io prendo sempre da 80. Sempre l'ho usato da 80, da sempre. No, questo... Ma non ti credo, perché probabilmente quando è così costa un po' di più, anziché costare di più da 80, magari costa di più da 100, da 60. Perché mi ricordo una volta avevo chiesto, così per pura curiosità, non perché mi serviva, perché l'avevo visto ed era da 10 litri, se ricordo bene, 10-15 litri, ma mi avevano dato un prezzo che costava quanto uno scaldabagno da 80 litri. Ehi, di quelli rapidi, e per forza. Io non ce l'aveva così qua mia moglie, l'ho subito sostituito, si tiene qua la doccia da 15 litri ho dati, vai, cambiamolo subito, l'ho cambiato, ce l'avevo tanti anni questo scaldabagno, mi si è bucato, e oggi addirittura ero a Trentino quando mi ha telefonato, che stavo andando a pescare con un amico. Mi sono fermato al parcheggio e mi ha telefonato mia moglie e gli saltava il salvavita ed era perché scendeva l'acqua dallo scaldabagno. Sono dovuto tornare indietro. Eh beh, certo che sì, se saltava il salvavita evidentemente si riempiva quella specie di coperchio che c'è sotto e toccava i contatti dove ci sono i fili. Sicuramente sarà così. Purtroppo sono elettrodomestici che hanno un tempo di scadenza, per cui lo devi cambiare per forza. Però quelli da Salis, ma hai già comprato? Sì, lo sto regolando solo, aspetta che mi stanno telefonando. Ah, è ok, regola. Oh. Era mia moglie, era. Regolato, dai. Ehi, sto vedendo di quanto sale, per non farlo salire molto, alla temperatura giusta, e così lo chiudo e non se ne va più da più. Ma cosa, l'ho regolato troppo basso stamattina. Ho capito, sì. Va bene, ma troppo basso non è che ti conviene, perché intanto, anche se non fai saldare molto, poi dura anche di più, cioè puoi miscelare di più acqua fredda, secondo me consuma anche di meno, perché se lo fai saldare poco, come metti l'acqua fredda, lo subito è già freddo, e allora per me dovresti riscaldarlo abbastanza, insomma, non dico al massimo, ma quasi. Ehi, vabbè, non lo posso punire a 90 gradi, no? No, se non è buona 90, la buona 80, però secondo me conviene, perché tutto è la prima volta, il primo consumo, poi a meno che non lo stacchi sempre, ma io lo lascio sempre attaccato 24 ore su 24, per cui io l'ho fatto scaldare intorno agli 80 gradi, così anziché accendersi per riscaldarsi, che so io, tanto per fare un esempio, ogni 2 ore si accenderà magari ogni 3 ore. Secondo me conviene fare così. E anch'io farò così, io non lo stacco mai lo stesso. Capito? Solo che non stava salendo, che era regolato troppo basso. Me ne sono accorto che più di quel tanto non saliva, non arrivava neanche a 60 gradi. Allora, l'ho aperto il forno e me lo sto regolando. L'ho messo al massimo prima e poi l'ho abbassato appena appena. Ok, ho capito. Ah, perché non c'è il modo di regolarlo quando c'è già il coperchio chiuso? Il mio invece è così, anche col coperchio c'è da una specie di manopolina piccolina e lo posso aumentare o abbassare così senza bisogno di togliere il coperchio. Qua non ce n'è. Ma è 5 minuti a richiuderlo, non è che ci metto molto, adesso vedo a quanto sale e lo regolo per bene, capito? E così ha giù finito. Da micata che mangiamo giù. Purtroppo succedono queste cose, d'altronde cosa vuoi fare? Nel giro di un paio di mesi io ho dovuto cambiare tutti gli elettrodomestici. E meno male mi sono salvato col frigorifero grande, però mi sono dovuto comprare anche un pozzetto piccolino, ma va bene, poi invece ho aggiustato il frigorifero e funziona benissimo, perché era il congelatore che non congelava. Prima avevo fatto intervenire una persona, ha funzionato per 2 giorni e dopodiché si era bloccato. Allora ho aggiunto un manuale e adesso è sempre funzionante già da un bel po', da allora insomma. Andiamo. Certo. Ciao Lu. Anch'io ho avuto guai al frigorifero, ma adesso già sta andando bene. Sta andando. Allora, controllo mi ha dato e ci ha mai da cantuazza. Seconda cantuazza, lo blocco così. Intanto però nel frattempo avevo speso prima la riparazione della persona che era venuta a riparare. Ha funzionato 2 giorni e non ha funzionato più. Allora mi ci sono messo io e l'ho fatto, ed è funzionante, a posto, tranquillo. Anche più di prima ghiacciava la carne e tutto quello che ci mette dentro. Ma adesso lo vissono. E poi ha già giambato la lavatrice, ha già giambato lo scaldabagno, la lavastoviglie, tutto quello che ha già giambato. Una cosa incredibile. Adesso ci manca la cucina. Ma quella già sta funzionando, ancora quella è nuova. Vediamo se si qualche bulla la cucina. Oh, per carità, che sono di naggiù, cucina, mamma mia. Sì, guarda, non pari lì, perché mangiano, gatta, ha giocato una micata proprio qua, non ha giocato altro che la mini a casa e pagata. Ma è così, mi lamento per quello, no? Però, insomma, per dire che si sa, queste cose succedono. Stava qua giunta, neppure un matrimonio, in famiglia, sicché, se vuoi immaginare, e dunque anche lì ci vuole il regalo, bisogna farlo, è ovvio. E viviamo anche per quello, anche per queste cose viviamo. E infatti io vago, giù, e io vago. Andiamo Giulio, che c'è? Ciao Luca, infatti è di là pagani, io pago, ma di là so che pagani, io mi pago la mano del portafoglio, però so di là che pagani, e infatti Luca. Cosa vuoi fare, tanti soldi vanno e vengono, sono chi si chiama e chi si ritornano, ma lui ha toccato il ciao. Però caridate, vabbè. Spieghiamoci la salute, poi i soldi, chi sono mai saluti, di dire non conta di me. Io sono sicuro, E poi avere di là, e non trattarli, e non mette non averli, perché tanto guardi, se vi hai a intendere, se no cosa ne vai a fare? Tu vedrai, ma bisogna remunirli, sì, stesso, non bisogna calmare le tue al contrario, non bisogna sprecarli. Però bisogna usarli, perché se no gli dà ragione, gli hanno griglia. Allora domani andiamo a mancare, posso vedere il pizza e così alla manco completiamo la settimana. E io vado. manica, se mi lo sempre in casa non puoi stare fuori, così non pago più a nessuno. Fai me, fa così, fa. Tanto non si seccani. E te lo base là. Non ne pagherà mai, non ne pagherà più. Non paga più a nessuno. Non paga manco la corrente elettrica. Ah, ma tanto la aumenta, tu fa puntiglia non ne pagherà. Sì, così mi ne assaccani. Ma sei sardi, nemi. Se te ne saccani, non è preoccupato, sì. Ma non lo so qui. Capitina, tu non l'hai conosciuto l'ugolino delle grandi richiarichi? Vabbè, tu sei un po' più giovane di me, dunque. Lo sai, hai conosciuto pure la lampada a casa a petrolio, la lampada a petrolio, lo sai? Sì, ha fatto il disegno di lasciare, mi lasciare giù. Lascia in camera, lo posso fuggire, la passo io di nuovo vostro, lascia in camera. Vai, abusivo. E vostro tutto quanto che si chiama Trento, andami più un coso, va, fa diventare con comare. A bei dagli smacco di chiarici non sono più mia, le mani si sono incendiate a presa niente, a tutti i chiarici. Non è teso, lo stabilimento di re, di la zera, se incendiato, delle grandi chiarici. Ma Gesù anda a furarli. Un Gesù. Appunto, che se riesce, andi, entra, ti fai un nome padre e ti se ne butti un buon pazzo in busciata. Tu gli arrivi, fai così e sei a posto. E con questo mi non hai ribadito a bondetta di così. Ma si ari, candemo, qui si impara lo stato a aumentare la luce. Allora, capita. Vabbè, comunque. A parte le fumature si aumenta a aprire un 40% della corrente elettrica, come ti sono disegni che fanno a baita che è veramente una vergogna, ma cosa tu pensa che questi bastoni che hanno addirittura a Gisa danno brevi a fastidare di là a pagare la luce, ma come tanta gente che anda a Gisa a farsi pagare la luce o a farsi pagare l'affitto, tanta gente, tu immagini di una condizione di andano a finire questi bastoni, una cosa incredibile, il governo è maledetto tanti voti con parecchie cose. Sì, infatti, ma non arriveranno a fare pagare così, dai, perché è una vergogna veramente, c'è gente che non arriva a fine del mese, gente che non va a travaglio, che non fa nulla, di na, molti voglio dire, come ti si fa lì? Chi c'è la buccia, ci ributtece la bubulazione? Chi si può comani gli andani a farsi pagare la bulletta, so. Chi c'è gente che ha necessità, purtroppo, Luca, ma anche per lo vuoi, c'è anche la persona furba di sicuro, però se vanno lì a mortificarsi, a chiedere di pagare la bolletta, vai da che avevo pure il coraggio, avevo meno, non è solamente questo fatto qua, tu mi avrai detto, ma non è una vergogna se poveri, no, non è una vergogna, però è un'umiliazione grande, grande, grande, grande, purtroppo è così, purtroppo la gente tante volte viene umiliata proprio per pura necessità, e quando non viene, non viene, basta, è lo stesso discorso come te che dici, se poi in fila, che via è quello, via, no, alla cosa, alla ex questura, dai, che si vuole in fila a Balo Rancio, la stessa cosa, purtroppo c'è gente che ne ha bisogno e povera gente, ma comunque, le prendi in attesa. Sì, infatti, non sembriamo in una civiltà civile proprio, parimo boh, cosa devo gli dire, in tempo di guerra, ma in tempo di guerra fa una cosa simile. Sarà vergognoso pensare e sapere che ci sono tante persone che hanno bisogno bisogno di aiuto per sopravvivere, non per vivere, ma per sopravvivere, per un tozzo di pane, capito? Uno si deve umiliare in quella maniera, no, non è possibile, è veramente vergognoso. Però noi italiani stiamo pensando agli stranieri, agli extracomunitari, a tutti quanti questi nigeriani che si affrontano nel Santo Donato, e che fanno di tutto, prostituzione, accoltellamento, eventi e balle varie, come sabato e domenica, tra sabato e domenica e hanno fatto una vagogna, e lasciamo indietro proprio gli italiani e aiutiamo questa gente. E una, si è stato bambino una parata in bigliacculo tutti i mari, fuori dalle balle. No, grazie Giulio, scusa di la frase, però sto facendo il limite. Sono all'ordine del giorno qua a Farrendi, sono delinquenti proprio questi nigeriani. So. E che fanno roba fonica, di tutto. Prostituzione a nastro. E allora, poi smettiano, allora smettiano, per cui, insomma, ma la vita alla grande in tutti i sensi. Fate quello, e non fa niente nessuno, ma io dico, le autorità non intervengono lì, forse hanno paura anche loro di intervenire, perché si sa, quella gente decisa e maledetta, ma non si può continuare così. Infatti ci sono sempre articoli sul giornale a riguardo di Sassari Vecchio, soprattutto via San Donato, sono diventati dei padroni, gente che deve chiedere il permesso per entrare nella porta di casa sua, perché ci sono questi bastardi seduti che tu poco se gli dici di alzarsi, anzi se gli chiedi il permesso si offendono anche e se non sei attento ti picchiano anche, una cosa incredibile a Baia. Dove stiamo arrivando? Ci siamo decisi a farsi un circolo, muro va in ragazzi vecchi, ma dimmi tu che l'hanno permesso una cosa simile ai italiani. E dipendenti peggio di Brooklyn, io dico la polizia, dimmi andate. No, il night ci hanno, cosa circolo? Night. Meglio ancora. Tutti quanti di manco entrare. Solo web e boh. No, il night per la prostituzione vale però. Perché bisogna pure i prostituti in civili. Deve andare pure quello. Se vai anche imbecille, gli anda, la lista la pure capacità di pigliare, pure un buon trafuglio, oltre la paga che deve fare, no, pare che bruttotti, la calendaria. Io purtroppo, un casino lì. È un casino, lì ormai tutto di loro, proprio tu devi domandare un permesso. Devi passare a capodritto, a capovascio, no capodritto. Secondo qua quando li vai, chi si monti in mezzo ti ammazzano. Sì, infatti è così, è pericolosissimo. Ma non solo in Santo Donato, in tutta l'altro, in questa zona, è stato Bulinari, in questa zona così, e le Monte dei Cappuccini, cioè praticamente le Monte dei Cappuccini si aiutano in via Infermeria San Pietro, in questa zona in Chivi, tutti ormai sono diventati dei padroni, siamo in Bronx, quando passi in Chivi come c'è passato in Bronx, è americano, la stessa cosa. Qui a Gizzolanda ad Antonio mi dà quello che fa la Fainelli, che la fa buona. La Gizzolanda a pigliare un po' più la Fainelli, non è voluto andare, chi va via paura, perché di notte è l'onfio lì. Non c'è andata, no? Oh. Perché è un casino lì, cavolo, è un casino. È tutto mio di trans, Sassari lì tutto rovinato, tanti negozi veri, tutti sarrati, tutti, pure via Rosello, questi negozi che vendia le pentole, cose per la casa, diciamo, là. Tutto chiuso, tutto, uno schifo, è rimasto un bar, un circolo e la farmacia e boh. E infatti cosa, tanto la gente di mandarvi, in chi mi vuole sacco, appunto un cucchio dentro la tessera in panza, né? Chi sa niente, sono tutti mari, proprio delinquenti, chi sa niente, so. Ma infatti, attaccato sono tutti blissisi, ma dove sei caricato a ammazzato? Infatti, parli tutti uguali e quindi no, non lo sai, cara. Chi se non hai bisogno manco di un cappuzzo. Vabbè. La colpa la diamo a chi li ha fatti entrare invece di mandarli via. Infatti bisogna non comprargli niente a questa gente, bisogna tagliargli le gambe e poi se ne vanno da soli. Capito? Quando uno acciappani come ti campassi s'avviani, ma stava lì così. Anche chi si viene affittato un appassamento, o magari magazzini per aprire il negozio. E qui pare malissimo, magari manco l'affitto di baga. Lasciamo perdere qua. Chissà che domani si ribelli, qualcuno a mandarli via. Basta mandare una greppa di poliziotti, carabinieri, a cui si rivola. E ogni tanto io faccio una carrettata. Cazzo, quando intendo un elicottero vuol dire che dipende la carrettata. Circondo già noi tutti arrestano, tutti chi si cacciappano. Sì, la poi un quarto d'ora è la legge che li fa. Ma fa piacere, dai. Non è così che si fa l'intervento. Questa gente può pigliare da espulsa, accompagnata all'aeroplano. E quando è l'aria, ho fatto un mare, l'aeroplano ho fatto guidare da Eddie, ma te, se non pilota di Matessi e la nell'aria vanno a farlo esplodere, così hanno manco un crepa di tutti i canti. Quanti paesi in Argentina di ricco di animali dall'aeroplano che si vede a fare Sidos così bisogna fare. Arrivi di in mari si diranno pinchivi boh, e chi si è visto si è visto. E così inquinano il mare. No. La prima risposta. E da qui poi di Rubidimmi che è sempre ben entrato. Avete capito che sul ministro la morgese, ragazzi, da poi io non so che cos'è che si offende. Ma che fa il ministro offende, cosa offende? Oppure si tende solamente la di dello stipendio. Ma cosa? Certo, sono entrati a 45 miglia di chi ce ne sono entrati in poco tempo, in pochi lì. Ma non è possibile, ragazzi, che si possa accettare tutti quanti che c'è randaggi. Capito, sono tutti randaggi, non vedete che sia. Sì, infatti, sono randaggi. Sono la peggior feccia, perché la Nigeria è un bel paese, ricco, buro, come te coso. La Nigeria, solo che il buro va a fammi e si ne fuggi. Va a fammi, ma cosa? Però sono un po' imbecille, ma che altri rivoltarsi contro i loro amministratori, venendo e andando in giro per il mondo. Vita invece in America che non vado ad entrare. Hai visto? Tu addirittura vuoi entrare attraversando il tuo fiume, non hai visto in televisione? È un americano che ha cavato, mi ha cavato. È una brutta, a vedere se torna in Danilo. Non hai visto in televisione? Non l'ha giù visto dal confine con il Messico. Entrani, il Rio Bravo. Ma voi entrani pure dalla Florida, che bisogna pure i cubani, entrani. Cuba è vicino alla Florida, no? E sbarcano lì, sbarcano, però già ci sono le guardie di confine lì, che li bisichino e voci. Infatti, poi visti che invece approdano in Francia, cosa base la Francia? Le pigliano nelle buone la frontiera italiana, nelle banda. Ristate burumi, ma quando mai siamo così deficienti, ragazzi, da noi italiani, che siamo sottomessi a tutti, non è possibile, non è possibile veramente. E la Germania che se ne rimandava tutti e drogati, tutti a chi ripagiene a Genizione e ridrumiano i buru, prima ricuriano e dopo li drogavano. Dai, che vergogna, siamo una nazione veramente. Porca Maria a vivo, amministrata Mari, ma Mari a vivo, Mari. Allora vuole fare una visita psichiatrica a Berlusconi, dimmi due, un uomo di 85 anni, se vuole fare la visita psichiatrica. Ma le pare che sono che hanno bisogno di una visita psichiatrica e non Berlusconi. E pure a me mi pare così. E cosa vuoi che ti dica? Sì, cazzo per gente, ti vena in occhi, si piglia un reddito di cittadinanza e se lo incassa nel paese suo, perché se ne tornano a casa sua si incassano i soldi italiani. Ma dimmi tu se può essere una cosa giusta, chissà, che non ha più dato a nessuno, se non sei nato in Italia, niente. E a chi si può andare a travagliare? Nuda, Roma stessi, solo a chi si invalida, aiutato, gente che realmente ne abbia bisogno che non poteva andare a travagliare di chi sul reddito di cittadinanza. Ma dimmi tu, so cose che mi fanno arrabbiare vero, Giulio. Sento di tutti i colori, nel senso. Sì, beh, certo. Qui ci sono i grillini, che si rimangiano i limoni, si rimangiano i gesuri. Che disgraziate, fa quattro volte che hanno avuto che da voi non ne buono messi, hanno nato che sono svetto di città di nata a cane a pulci, a pura che hanno necessità. Io ammetto che c'è qualcuno che ha necessità e lo aiutare per forza, ma addirittura bisogna camorriti, bisogna possessori di appartamenti di che prendono il resto di cittadinanza, ma è vergognoso veramente, e il governo non se ne rende conto. Da pure quanti residenti tu, questi stranieri, prendono il resto di cittadinanza e si andano a rubare i residenti, si andano. E con questi dirassi si compaiono addirittura le case, ma chi si sente dentro, non si sente un euro che prendono i nomi di resto di cittadinanza che dà a fare 8 milioni. Sicché in poco tempo si prendono pure un gas, residenti, vergognoso, ma che governo che fosse imbecille, di imbecille che avremmo. Che non abbiamo fatto entrare nessuno, l'abbiamo visto in acqua internazionale, mi ero messo con la motovedetta anch'io, cazzo, con la mitragliatrice, cazzo. Se non tornate indietro vi affondiamo. E l'abbiamo affondato anche terra di nessuno. Lì. Non sei né in Italia né nel paese di loro. Gli spari addosso e chi si è visto si è visto. Prima vi parlate a prua e a poppa. Se non vi andate cazzo fare in mezzo, l'avevo detto. A vedere, le devo vedere. Se dico pensa lì di cannicia fuggenti. C'è una bagogna, da cui basta di davanti all'assinazione, tipo la Libia, la Tunisia, eccetera. Sono arrivati in Siria, a poche miglia, e invece da cui continua ad arrivare in Italia. Andano a Fusca, di navi, andano a Fusca, andano a pigliare gli italiani. Non è possibile, non è possibile veramente. E la poi la regala tutta in occhi, tutta in occhi la regala mondessa. Oh, eppure la butto a tanti cittadini italiani, da cui fa burmi, perché per tanta gente che dei poverini bisogna aiutarli, ma brutto deficiente che non sei altro. Se te lo chiede l'aiuto un italiano non glielo dai, e bene dei delinquenti e sei disponibile ad aiutarli. È una vergogna veramente, guarda. Rubabba in prima fila, tu dici, a fare di accoglienza agli salienti, vinca Rubabba in prima fila, ma dimmi tu. Sì, ed è la voce di guida nei vini, le offerte, l'hai visto pure, quando le mani in bella giudici, o non sei le mani, che sono lo stesso che deve fare, va, che si prende, che stanno impegnando, stanno mangiando tutti quanti lì, le offerte. Tu ti dai di là che dai niente, hai visto che è stato un delinquente, addirittura per un prete sia il positivo che commerciava droga, che faceva dei festini hard, 40 anni, gli ha buttato una bella vita, gli ha visto, e gli si imbecille che danno dato 800 mila euro, danno dato così, in di là lì qui, addirittura degraziato, e gli sono capita, chissà che fine l'ha fatto fare, se gliela, una vergogna, devo andare all'appartamento da 500 metri quadrati se ti prendi già l'abbiamo già avuto, no? Già l'hanno fatto tanti volte i giornali. E infatti se tu pensa la banca della città del Vaticano è socia della Beretta, di quelli che fanno le armi da guerra, mi dimmi tu, la Iesia che me ne abbia fatto una vagogna. Anche di là le dinastie a tutti, soprattutto a Eddie, soprattutto agli italiani. Ma cosa se no, Eddie sa aiutare, però Eddie non aiuta mai a nessuno, non aiuta. Ma che non si sente buttare un poco di italiani, ma perché non si sente buttare un poco in Vaticano e aiuta Edo? Siamo noi che aiutiamo Eddie, addirittura, ma cosa che si pigliano, sono gli italiani che mantengono il Vaticano e da poi siamo uno Stato a sé indipendente, capita, un'idea degli italiani però. E Allora, proprio così, Giulio, proprio così. È una cosa che non... E si che andare a controllare, a vedere che hanno stato lo scaldabagno. Controlla, mi ha dato il termometro a controllare la temperatura dell'eva. Piano piano, asta, due tempo, a fanguarla. Tempo per buonia. È quasi tutta l'eva, se vuole il tempo, Sarebbe una volta che la vuoi seccata, se la dai sempre attaccato, quando si attende, dura un paio di minuti, la vuoi se da resto là. A che conviene così, conviene la gatto sempre attaccato, fa che si distacchi. Se prende l'eva, la buca d'attacco, torna da capo e quasi torna da capo. E dunque il consumo è sempre un bel superiore. Lo stato a bagno si deve dare, e poi le vacanze bisogna in questo chiamamento, non puoi staccare lo stato a bagno, vabbè, bisogna che ti passano i vari chiamamenti, le dai, e ne staccano convinti di risparmiare, e io dico che il consumo di più così, e metto l'aria sempre attaccato, le vacanze avrai sempre 24 ore su 24, tanto di ne stessi da avrai, e quando si attacca un paio di minuti, non so se ti è mai capitato di vedere, si attende la spia, addirittura quasi un piccolo rumorino, un tacco quando si attacca, e poi anche quando si stacca, un paio di minuti, leva lo massimo che hai regolato e non hai bisogno di fare la cartina all'inizio. Infatti, il mio è sempre stato attaccato, non ne ha mai attaccato. Cata, mia moglie deve fare i piatti, una doccia se la vuoi fare. Cata, cosa devi fare? Anche io a attaccare e a staccare lo scaldabagno, così cazzo la bulletta dici... No, è sempre attaccato il mio. Cata, e vi rapì un sacco d'animi. Cata, qua, mi senti piaciuto su scaldabagno, a chi guarda, non mi ha dato mai problemi. E chi si è buccato? E l'ho dovuto sostituire. Se te lo dici, fatti in TV, avanti, aspetta che aumento il volume, se no non ti accorgo, vai. Riuscite a sentirmi, mi fa piacere che saluto gli amici. E se non fa presente giù, e cosa vuoi fare? Io sono con Piccinetto in macchina. Ah, Piccinetto in macchina, sì, vabbè, comunque. Piccinetto di statura, come te me sei tu? Piccinetto di statura. Vabbè. Ciao Bru, cosa sei conveniente? Era da un mese, se ascoltate, va? Stasera, vero, dai, stavo sistemando perché sono stato dentro, sono trasferito, sto sistemando il garage, ho trasferito tutte le cose. Finalmente ho preso il pacco dove l'ho conservato il baracchino, mi dà giù il garage, mi ha messo l'antenna in macchina. Adesso sto salendo verso l'una e sole, tra un po' mi richiamo, nel senso mi sentite meglio. Ma l'altro che è Natalino? Ciao Bruno, già ti sento anch'io. E ciao Natalino, ci sentiamo fra un attimo che mi metto in movimento e salgo verso Cappuccini, così mi sentite meglio. Anda bene Meda. D'accordo Bru, siamo qua, non c'è problema. Così è Natalino, cosa vuoi fare? D'altronde? Uscendo sai Natalino, con questo fatto dei contagi, uscendo sai? Sicuramente sì, però non come prima. No, già sto uscendo, se addirittura me ne stavo andando a pescare, ero già arrivato a Sintino lì stamattina al parcheggio e mi ha telefonato mia moglie che ricattavano dal Valvizza. E lì siccome non ne sa, sono dovuto salire per forza io ed è andata a monte la pescata. Me ne sono cominciato da risicchio, mandarlo, manda a picca. Vabbè, è andata così oggi, Basenzia. Certo che sì, capita. Ma tutto chi ci bucia lo male della vita, o Natalino. Finta che è così lo male della vita, non è così grave la situazione. Pazienza, voi dite che voi dite di là per comprarlo, lo stato a bagno, vanno ai 4, 5, 6 anni, vedrai tranquillamente, di quanti anni è di garanzia, di 5 anni o di 10. Dovrei guardare, c'ha il manuale mia moglie, non ci ho manco fatto caso, l'ho preso uguale a quello che c'avevo prima, l'ho preso, stessa marca e tutto. No, ma dai, guarda, era bellissimo quello scaldabagno, funzionava così bene. A me mi aveva detto un amico idraulico, un idraulico abbastanza esperto e preparato, eccetera, dice, cada bagno, dice, sono tutti uguali, parlo dell'interno, cioè della bombola interna che c'è, no, dove contiene l'acqua, dice, sono tutti quanti uguali, sono. Poi magari c'è quello che ti dicono, hai la garanzia di 10 anni, c'è quell'altro che ha la garanzia di 5 anni, c'è quell'altro che ha la garanzia di 2 anni, e in base a queste cose, e in base anche alla marca, alla ditta, dice, ti fanno pagare il prezzo più o meno, più alto o più basso, però in realtà, dice, la bombola, chiamiamola così, dice, in realtà sono tutti uguali, sono tutti indistintamente. Si fa la bottura di buttura del sangue, si fa invece la bottura, dipende anche dal calcare dell'acqua, l'acqua che uno usa, eccetera, eccetera. Se si può buccare in un paio d'anni, bisogna vedere, dunque bisogna anche affidarsi alla fortuna. Sì, infatti. A chi si fa 10 anni di garanzia, devo farsi ne pagare un tot. Si fa 2 anni, devo farsi ne pagare un prezzo diverso. Più garanzia va e più rubachi, però lo scaldabagno è romantessimi. Si fa in una addirittura di 10 anni, e se non ci si bucca prima. Ok, infatti. Ma io lo vedo da lui, la poco, una, praticamente un Ariston, tutto sommato, però mi spiego, come marca, non è in realtà Ariston, è una marca completamente diversa, però dice, è una produzione dell'Ariston, cioè sono gli scaldabagni come quelli dell'Ariston, dice, ma è tranquillo, non ci sono problemi, e allora ammiro gli ho fatto, ma senza, se si butta, non sarà che c'è grande spesa, è più il disagio che devi stare lì, andare a comprarlo, attaccato, non attaccare, così via, per 120 euro, ma da 1000 futidini, ed è 5 anni di garanzia quello che ho preso io, poi si dura, ma diciamo che quello che avevo prima, lo stesso era 5 anni di garanzia, ma ce l'ho avuto 7-8 anni, almeno 7-8 anni, sicché come vedi Natalia, una volta se sei fortunato ti dura di più degli anni della garanzia. Sì, a fortuna, è come se pururera. Io ho la fortuna di aver fatto, di aver messo il rubinetto per far salire l'acqua allo scaldabagno. Praticamente non ho bisogno manco di mettere il tappo io, perché tolgo l'acqua allo scaldabagno e posso usare l'acqua in tutta la casa. Io ho buttato un rubinetto in ogni rubo, in modo che posso, stamattina mia moglie poteva usarla lo stesso l'acqua, perché ho chiuso quella dello scaldabagno solo. E beh, certo che sì, e io nei bagni, io non è che nasce uno bagno, e nasce tre, si può immaginare, sono fatte così, c'è la centralina in ogni bagno, c'è che ogni servizio, ad esempio il lavandino, la vasca, il water, tutti altri tipi cose così, no? Ognuno ha il suo rubinetto adesso, se c'è un guasto per dirti si rovina il rubinetto del lavandino, cosa fai? Prendi, chiudi il rubinetto adesso, l'acqua del lavandino, però ce l'hai nella vasca, ce l'hai nella doccia, ce l'hai nel bagno, ce l'hai in più, è così che deve essere allora. Oggi gli impianti si basano così, non è come te la buttano, prima era il tubo diretto, tanto succedia un danno, vai a il rubinetto maestro, il buttatore, tu te lo bucio, non mi dato nulla. Oggi no, oggi è tutto quanto così, ogni tubazione ha il suo rubinetto d'arresto e tranquillamente non c'è problema. Sì, ma sono tutti i gravagli che ho fatto io, se no li ha tutto diretto in oggi. Cazzo. Sono tutti i travagli che ho fatto io in oggi, pure un impianto elettrico ho dovuto buono in mano, in oggi ho fatto tutto io, se no era tutto alla carlona. Infatti, come ti ha infuso poco a poco, tac, è cattato lo salvavita, e non attaccava, Se ve lo leva, è ovvio, il cortocircuito non può attaccarlo, è ovvio. faccio la crepe, tu pensa che mi faccio pure in casa, io voglio un canastino, faccio un chili per leva, tu mi dai cosa te ne fai, forse non mi si fa niente il chili, è pure un miraggio, fai dici no, oltre cosa dall'interno, faccio pure all'esterno, per un canastino. Non mi ha costato niente, ha piazzato un tubo, ha piazzato, ha buttato un rubinetto e con chi mi vendeva. Ma lì, figurati, beh, oggi le comunità sono importanti a breve, no? Ci mancherebbe altro. E poi uno che si fa la casa per conto proprio se la fa con le comunità più sofisticate possibile, no? È così l'impianto elettrico. Entri nella camera, alza la scala, attendo la iosso, e tanto sono con l'ombra il culo, è così dappertutto, insomma, dove è necessario aver fatto così. Infatti, è proprio vero. Cazzo, io gli ho fatto una pompa stamattina, gli avevo fatto, no? E stamattina mi è entrata in mano, poi mi ci vida proprio bello scaldabagno, grossa, amica, bomba, ma pianaccio di bidone, dice via, che mia moglie diceva che la provvista è leva, pagando mancareva in hobby. Guarda, attacco rapido e tutto. Caro rubinetto ci viene a rividone e mi è venuta proprio di lusso a quando io a comprare lo scaldabagno nuovo, lo scaldabagno era già vuoto, mi ha giovarato e è già attaccato il rastro e mica se lo fa il cambiandolo. Ciao Bruno. E allora? E adesso le sono morte, sono già sacco, non mi sta aiutando da volare. E io già ti sento bene, non c'è problema. Ehi, anch'io lo sento bene, arrivando a 9 più 5, brucio, radio 5, perfetta, non c'è problema, già ti sento bene, benissimo anzi. Sì, ma è così Natalia, no, tu immaginate, tu io nel box dove c'è la lavatrice, che è praticamente a livello di primo piano, perché a livello di primo piano c'è lo senditoio, no? per i panni quando mia moglie lava, eccetera. Guarda, dalla lavatrice c'è direttamente al filo per stendere, e c'è il box per la lavatrice. Cioè, in questo box poi ci sono tutti i piani, tornando al discorso della provvista dell'acqua, e ci sono mille bottiglie qua al poco, vedo, tutti pieni d'eva. In caso di necessità dovesse mancare l'acqua, a me non mi manca mai, ma che bilancio sempre di riserva. Per cui anche quello bisogna prevedere, visto e considerato che Pia Sassari e Valdizai di tanto in tanto manca l'acqua, anche se qua, devo essere sincero, manca raramente, però è capitato che gli è mancato anche qua. Vai Natalia. E infatti, mia moglie diceva la provincia di leva, e quando dopo il chiamanca è dalla Roma a te si leva, capito? Si fa i bidoni, si sa di lavare che cosa, si la lava e via, senza anche di attirare la ronga, non deve rimanere senza eva, chiaramente tutti i ridichi siamo rimasti senza eva, se mia moglie la via sempre leva, e se dopo si è finita vado in campagna, e leva la giù sempre, anch'io la chi va giù il botto a sonda, mi viene un ribidone e me ne riparo, sai, quindi senza eva io non vi rimango mai. E certo che sì. Ma è così, infatti l'acqua bisogna, visto considerato che c'è questo problema dell'acqua a Sassari, allora bisogna essere prevedenti e cercare di attrezzarsi in modo che dove buru, 30 di bidoni, cioè in questi ripiani che ci sono, avevo fatto un'impalcatura, no? Un'impalcatura, una specie di caparatura con dei ripiani da muro a muro, e sono tutti pieni di bidoni d'eva o Natalia, per cui non avremo mai i problemi, anche quando capiteggia l'eva ve la avremo sempre. Avanti Bruno. Infatti, no, io un paio d'anni ho risolto un problema perché adesso abbiamo più tempo, non so se ma se come è Tommaso, infatti sono sceso giù nell'altra appartamento dove ho le garage, appartiene a un altro condominio, si dice la lampa, allora la garage mi ha divinato le bidoni e ho portato su a casa, non ho potuto trovare a testa, comunque è va. stato che manchi d'acqua, una rottura di palla, specialmente la donna, io non me la dico, ma chi da comincia a casa, come faccio a fare, come faccio, ma adesso quello che ha per farsi. Allora, io adesso sono verso Viale Gramsci, adesso è cominciato a sentirmi meglio? Ma se ne potresti andare in piazza Le Segni lì e esci forse lo stesso da tutte le parti, ti sente? Una volta c'è il mio garage, lo chiamo sotto me, per cui diciamo che non mi aspettavo neanche che devo riuscire a uscire, perché sono palazzo di fermati, altri 4-5 piani, e io non sto sotterra, e ho visto che comunque sono uscito, è un'antenna calamita sulla macchina, è il vecchio Zodiac, quello che non ti tradisce mai. Vabbè, un attimo che mi sposto, riprendo subito. Vai, dottore. Qual è il vecchio Zodiac che hai? 50-36 Bruno? Ah, adesso io sono in movimento, non posso guardare, perché ho un Intec, ho una paillette, ma questo qui è... tipo un po' di inverso, ma simile come, però al posto di averlo smesso da questi led che si illuminano, questi led, e non mi piace così, non mi piace. Ho capito, hai il coso digitale, sì, vabbè, anziché se è analogico digitale, no, allora non è quello, il 5036, tu immagina che ricordi il 5024 Tokai, era né più nemmeno quella radio lì, era così, più o meno uguale, era fuori dalla gomma che aveva attorno il 5024, che tu già ce l'hai avuto in quegli anni passati, però la macchina era quello, cambiava il nome, il sigla, lì due la Tokai, che dà la Midland, però era quello, dai. Allora, questo è Zodiac M50, tre tastiere, ma io sono come si dice, è scritto in piccolo, sì, è una specie di 2024, e metto ok la siriale, io non so che fine ha fatto toccare, perché quando ho usato 80 anni fa, ho portato tutto in soffitta, noi la soffitta abbiamo fatto una selezione per portare tutto giù in garage, e guarda, sono ancora proprio scatoloni, però sono sicuro che non lo trovo, perché il suo è già fuggato dappertutto. Non lo so che fine abbia fatto, bro. Grazie a me il 5024 me l'hanno rubato dalla macchina, nuovo era, me l'aveva regalato Maria mio fratello, il tocca al 5024 ci avevo proprio. Ho cominciato con il 5008, allora io ho avuto tre toccai, ho avuto il 506S che era 6 canali, poi ho avuto quello portatile e poi il 5008, se ve lo ricordate, il 23 canali, il 5008 era molto bello, poi è uscito il 5024. Io li ho avuti tutti quei baracchini, 1, 2, 3, 4 baracchini toccai ho avuto, dal portatile 6 canali e il 506S, sono passati 50 anni ancora, ma metto la sigla, 506S. Sì, anch'io, io ce l'ho sempre, il 5024 toccai ce l'ho sempre. Allora poc'anzi avevo indovinato quando ho detto il 5036 della Midland, il Zodiac, sì, ho capito, ma però tu hai quella versione con il LED, anziché avere lo smettere analogico, hai quello digitale, ho capito, Blu. Ma non mi piace, non puoi dare controlli e non è, cioè, diciamo che la scala c'è, ma non è molto, come sensibilità, come cosa, non è molto affidabile, capito, per cui, ho anche, che l'ho acquistato da poco, un Intec, questo è un Intec, che adesso non sto usando perché avevo messo un prezzo e funzionava male, allora sono tornato al vecchio baracchino, che tutto sommato non è male, perché tutti ne sentono, questa è un'antenna, una mini turbo, non mi ricordo come si chiama, boh. E tu come fai? Sarà ricciata. Ho capito, Bru, ho capito, sì. Ci sono degli antennini oggi, sono difetti, non sono al massimo perché ci sta l'antenna, quelli che funzionano bene veramente è quella più lunga. Poi gli antennini si sa, lasciano il tempo che trovano. Io questa radio che sto usando adesso ce l'ho acceso da stamattina alle 10. sempre acceso, non l'ho mai spento da tutta la giornata. Sono questa, sono già le 7, dalle 10 di stamattina, tanto di sotto, 9 ore già, 9 ore sempre acceso, praticamente, non l'ho spento per niente. Me ne sono sceso giù, ero tutta la serata giù, e il baracchino qui sempre acceso. L'ho lasciato tutta la giornata acceso. E avevamo poi lo squelch messo e col volume un pochino alto, ma non è entrato nessuno, qualcuno così stamattina, ma quando stavo ad arrivare era sparito, non rispondevano più. Avanti Natale, rientrato, sì. Sì, sono qua, ho risposto a Bruno poco fa. Già sono rientrato. A 60 gradi è arrivato. Quasi. Se comincia ad andare bene, ma quando arrivi fino a 80 potete dirmi che va bene, quando ce l'hai a 80 tu risparmi corrente elettrica, ma stai consumando adesso, ma ce l'avrai di risparmio poi sempre, per tutto il tempo che lo userai con lo scaldabagno. E va bene, dai. Capito, fagli gli auguri Bruno a Natalino che si è comprato lo scaldabagno nuovo, Uggio, fagli gli auguri. Prima o poi dovrei fare anche a me, perché noi abbiamo la caldaia, però con questa caldaia stiamo consumando un sacco di corrente, un sacco di acqua, un sacco di rotture del fase del gas, adesso mi stanno facendo certi colpi di gas e adesso non sono soltanto, infatti stavo parlando con un amico che fa questi lavori, gli ho detto per piacere adesso questi giorni attrezzati e rimetti lo scaldabagno, chiudo la caldaia del gas perché questa azienda che abbiamo a Sassa mi sta stellando vivo con un sacco di soldi, quando mi metto la bombola in cucina nuovamente, cazzo che una bombola per cucinare durava 2 mesi di gas e no che mi sono arrivati in Zambia, va, tanto riscaldamento d'inverno non lo sto usando a gas perché cazzo mi è uscito anche 600 euro lì, anche 600 euro in 2 mesi non è uscito di gas, ma è vado a fanculo. Avanti, poco tutto. Quando attacchi la caldaia per farti una doccia deve stare 3 ore scendendo l'acqua prima che scaldi. Ma lo scaldabagno ce l'ha diretto. E infatti avanti, sicuramente, dopo tanti anni sono una volta vecchio scaldabagno e non me ne ha fatti più nulla. E infatti mi Giulio, quello da Santa l'ha pagato 120, l'ha pagato. Quanto io ho pagato il mio. Questa 120 euro da Bricomenti, ci sono anche Harrison, Buni, e cavannina subito questa caldaia che ti spennano vivi col gas e pigliati la bombola che costa 35 euro una bombola da 15. Sì, ma poi a me una bombola, noi nell'altra casa, poi sono stato finito da 2 anni questa cooperativa qua, nell'altra casa avevo la bombola, era una rottura di palle perché chiaramente stacca, diventa il gas, però cavolo, se tu mi dai certi colpi in testa, io il scaldamento questo periodo non lo sto usando, se tu lo sto usando lo chiami soltanto per, vabbè se fa la doccia, a qualche altra poca ne usiamo, ma se io mi fa la doccia, io, mia moglie, alla fine però, adesso quando ti arrivano centinaia e centinaia di, e poi c'è una cosa, che la caldaia può inserire la corrente, il problema è che quando tu vuoi l'acqua calda, con la caldaia, prima che arrivi al genere, perché hai consumato un sacco di acqua, ma è un bene. Questo ragazzi, in questa maniera, abituato io, aprivo, lo scaldabagno, il vecchio po' lo scaldabagno, adesso un amico deve venire, mi fa l'impianto, e poi il collego, la pazienza, non lo so se poi potrò rimanere collegato alla cisterna dell'acqua, perché ha fatto tramite il condominio. E se no tornerò ormai da 20 tempi e quando mancherà l'acqua pazienza, che adesso la caldaia non sta funzionando l'acqua con la cisterna del condominio. Ehi, Oia, fate le piante indipendente blu, che ci guadagni. Guarda che sicuramente è così, anche per quanto riguarda il riscaldamento, anziché avere il gas per il riscaldamento, che come stavi dicendo tu, che hai pagato un bel denaro, ma io conosco tante persone che saranno addirittura staccato l'impianto. caso andasse, perché dice che non è conveniente, è troppo costoso. E ti dirò di più, proprio la settimana scorsa ho letto un articolo su internet, sì, che il gas addirittura lo vogliono eliminare perché non conviene, ma non conviene alla gente, non conviene a loro, alla società, ai gestori, eccetera, addirittura lo vogliono eliminare, così hanno detto, ma io non me lo sono mai messo, c'è il mini-impianto qui nella sala dove abito io, posso chiederlo, ma non ne ho mai messo, io preferisco la bomba, con la bomba tranquillo del Pacifico, tanto di Marco, va a telefonare e tenere le cose a casa, che problemi ci sono, oppure ti fa la passeggiata, vai la compri dal bombolaio dove vado io sempre, la metto nel portabagaglio e me la porto io, tanto il tempo non mi manca, per cui è così, vale per lo scaldabagno, il scaldabagno è sempre elettrico, cosa gas, manca gas, assolutamente no, il blu, tutto elettrico. E vabbè, adesso piuttosto dobbiamo scegliere il gestore della corrente elettrica, entro il 31 di questo mese bisogna proprio scegliere, se no fanno a modo loro, fanno con l'Ener, con quella che sono adesso, dice i primi 2 anni ti fanno il 20% di sconto se rimani con l'Ener, poi dopo 2 anni magari sarà più libero il prezzo, il mercato, e vediamo un po', però io penso che uno valga l'altro, io sono qui con l'Ener e con l'Ener rimango, poi casomai se aumenta di un po', ci vuole poco a cambiare, no? Non ti sembra la tariffa? Sì, infatti, e per quanto riguarda il gas, io ne ho 2 bombole, se mi manca una attacco l'altra, oggi mi hanno portato quella di riserva nuova, così se mi manca attacco la bombola e le guida la canzone, e a me non mi manca mai il gas. Non di certo, poi tu non ce l'hai di fronte il bombolaio, non c'era quello maciucco di fronte, nell'altro angolo dove c'è il tabacchino, nell'altro angolo, sempre c'è il bombolaio lì. No, hanno chiuso, i clienti ce li ha presi un altro, e me l'ha portata sempre quello, la bombola. Infatti stamattina ho telefonato perché ho visto che la bombola... quella che c'aveva attaccato non c'aveva bombola di riserva e me l'ha fatta portare di riserva una. Così ero, ma quando vieni chi sta curata e non rimango mai, magari ti manca in domenica quando devi cucinare tutto e ci sarà, invece io vado a dare in riserva, se mi manca il gas ci metto 5 minuti a attaccare la bombola e non me ne posso problemi. Ho quella di riserva e faccio così, oggi me l'hanno portata a me quella di riserva. A chi è meglio essere previdenti nella vita? Certo che sì, no.